ad alta voce. Monica De Muro legge L'Iguana di Anna Maria Ortese. Daddo turbato. Ti ho vista che ammucchiavi denaro. La bestia sogna. La casetta dove erano custoditi i polli e, così sembrava, di tanto in tanto la iguana, non era distante da quel medesimo canalone di ulivi dove al mattino egli aveva aiutato l'infelice a tirare il secchio dal pozzo. Si accostò e per la grande luce lunare, anche se schermata da qualche ombra proiettata dagli ulivi, vide chiaramente il recinto, con una parte, quella verso il fondo, protetta da un telo che doveva assicurare il sonno dei volatili e l'altra completamente aperta alla luna. E qui stava la iguanuccia, intenta a un'occupazione che, al modo in cui una improvvisa verità ci attraversa la mente, rischiarando una situazione ambigua o perlomeno dolorosa che ci preoccupa e affligge di volta in volta, così, con una tale occupazione, parve far crollare di colpo nella mente del tenero visitatore ogni sospetto di male e quasi di pena. La giovane strigliata, che ormai sulla sua giovinezza, anzi la cruda infanzia, non rimaneva dubbio, aveva tracciato sul terreno, con una pietra appuntita, quel recinto rettangolare che tante volte il lettore avrà visto fare dai fanciulli e col quale egli pure da bimbo avrà passato delle ore. Tale recinto è a sua volta diviso in altri sei, più un settimo situato all'estremità del rettangolo e questo di forma semicircolare. E l'intero gioco, che consiste nel saltare su un piede solo da un quadrato all'altro senza toccare la linea di divisione e facendosi precedere da un sassolino, è chiamato la settimana. Gioco ingenuo e mille volte più ingenuo, se non bizzarro, se giocato durante la notte da una creatura come l'iguana, che egli aveva già visto patire, sospirare, contare denari con tutta la soffocazione e il tremendo silenzio di un'adulta. Quasi la notte, liberandola dalla presenza degli esseri atroci che la circondavano, svegliasse in qualche modo un suo patrimonio di felicità. L'iguana, con piccoli saltelli, passava leggermente da un quadrato all'altro. Alcune di quelle galline, sveglie e indispettite, la fissavano dai loro posatoi e l'iguana, al modo di tutti i fanciulli del mondo, sembrava non farvi assolutamente caso e quando volgeva il muso sottile dalla parte del conte, il giovane poteva vedere che vi era là, in mezzo alle grinze di ansietà e terrore lasciatele dalla quotidiana sua vita, non so che luce di grazia, di gioia, che non si spense neppure allorché il conte, accendendo la sua pipa e con un sorriso intimidito per quanto gradevole, si accostò al pollaio. «Ecco dunque il motivo per cui le galline non dormivano», disse egli graziosamente, e pensava quanto, condotta a una scuola, lavata, messa in ordine, l'iguana non avrebbe sfigurato tra mille altre creaturine. L'iguana, come se veramente la sua animuccia fosse guarita e liberata da ogni amaro timore, rideva, o così parve al conte, perché aveva scoperto due dentucci, peraltro molto distanziati tra loro. Ma non era affatto brutta, anzi, parve al conte così carina che lì per lì crede di averlo saputo sempre. Gli parve anche che i suoi occhietti non fossero affatto piccini, ma grandi, splendenti e calmi soprattutto, quasi l'intera luna come in un pozzo vi si specchiasse dentro. Impressione che non durò tuttavia molto, dopo che l'iguana, abbandonato il gioco, si avvicinò al cancelletto e infilò tra le due sbarre l'esile muso. Allora quegli occhi, tornati piccini e seri, gli fecero una impressione di gravità, come se la follia del marchese non avesse di molto risparmiato quella tenera mente. Essa lo guardava, non già come una bestiolina, una iguana giovane. Non sapeva neppure lui in che modo lo guardava, ma certo vi era in quegli occhietti una severità, una lacera interrogazione, al di là del discorso, che si avviò in questo modo. Iguana. Non avete sonno, o signor? Conte. No, Estrelletta. E neanche tu, mi pare. A che cosa giocavi? Iguana. Alla semana, o signor? Conte. È un gioco che si fa da soli? Iguana. Sì, o signor. Il conte appoggiò un braccio sul tetto del pollaio e, guardando in giù verso la stravagante creaturina, ritrovava in quegli occhietti splendenti e fissi una soavità che a Milano mai aveva visto negli occhi di alcuno, e gliene veniva un sentimento pacato e grave del segreto dell'universo, di tutti gli abissi che ci circondano e molto probabilmente della loro bontà. E chissà come, anche tutte le stranezze e durezze degli ospiti, la loro stessa passeggiata oltre la collina, non le inquietavano più. E mentre si sentiva così sereno, era anche un po' accorato, come se fosse colpevole di qualche cosa quale non sapeva. E gli pareva che la risposta fosse in quella misera e verde figurina illuminata dalla luna. «Senti, Estrelletta, vorrei dirti una cosa», disse dopo un po'. «Ti dispiace se ti chiamo Estrelletta?» «No, o signor. Che cosa, o signor?» Non aveva sbagliato a temere un'allarmata reazione. Vi era negli occhi della fanciulla bestia, adesso, una improvvisa inquietudine, come se di colpo si fosse trasferito in lei il mite turbamento del conte. Essa ripeté, guardando altrove ora, che cosa? Ti ho vista che ammucchiavi denaro, disse improvvisamente il conte. Non è bene, capisci, alla tua età. Ti ho vista nella tua stanza dalla botola. Non era questo in realtà che avrebbe voluto dirle, ma forse solo un rimprovero crudele, proprio perché ingiustificato, avrebbe potuto esprimere quelle dolorose e delicate emozioni che intrecciavano le loro dita dentro la sua testa. Non riuscendo a provare alcun pentimento né a capire di che soffriva, fissava l'iguana con una severità ancora maggiore. «Non era denaro, signor», rispose la servetta dopo un momento di sorpresa in cui aveva guardato con improvvisa durezza il conte. «Ah, non era denaro. E cos'era?» «Pietre erano». Per un momento gli occhietti brillarono di una luce cupa che fece male ad Aleardo, ma poco alla volta si addolcì e allora, con un'espressione che parve al conte di timida arrendevolezza, essa ammise. «Sono i miei risparmi, signor». «E perché li seppellivi?» «Così, non so». A questa spiegazione, data in fretta, con la solita aria dura, ma anche una sfumatura di malizia, come se dai suoi pochi pollici essa misurasse l'ingenuità del lombardo e la sua dabbenaggine, seguì un curioso rannuvolamento e poi una nuova svogliata arrendevolezza, in cui essa confessò al conte che faceva così perché non era ben sicura che Felipe e Ippolito, durante la sua assenza, non volessero riprendersi i denari, dato che molto malvolentieri avevano acconsentito alla sua istanza. «Prima dunque non ti pagavano?» chiese Aleardo, osservando la manina che stava davanti a lui con le unghie sporche. «Mi davano altre cose, o signor». «E che cosa?» Dal fatto che la iguana non rispose, fu facile al conte arguire che si trattava di una nuova menzogna. E prendendone la sua, quella piccola sudicia mano, meravigliato che fosse tanto fredda e inerte, pensò ancora che forse non era una menzogna, quanto un'immagine. Legava quella tetraggine, quello stupore, quel rapido altre cose, e gli parve di capire che ciò fosse affetto, umanità, espressione di graziosa simpatia che probabilmente, per qualche grave fatto o mutamento intervenuto nella vita di quegli esseri, o forse nessun mutamento, ma solo indifferenza, come accade nella vita, erano cessate. Dopo di ciò, forse per compensare quel distacco e quella sofferenza con valori di ordine materiale, essi avevano deciso di pagarla. Ma anche qui vi era confusione, in quanto sembrava che proprio la iguana avesse sollecitato, in mancanza di un trattamento più amichevole, un regolare versamento di denari, se denari potevano chiamarsi quelle brutte pietre. «Tu vuoi bene al marchese, io credo», disse dopo un po', chiedendosi in quali abissi a queste parole fosse rientrata la iguana, perché non la vedeva quasi più, e ciò era un po' effetto di una nuvola che era venuta dinanzi alla luna, ma anche di un'improvvisa smemoratezza del conte. Gli pareva chiaro adesso che la sua conversazione non piaceva affatto all'iguana e che non piaceva per la verità neppure a lui. Andavasi ricordando quasi con le lacrime agli occhi e senza alcuna ragione quanto simile a un lungo sonno fosse stata sempre la sua vita. Case, o signor, case, per cui con un mutamento di espressione che avrebbe colpito un tenero amico, ma non certo un'iguanuccia di quel genere, tanto stravagante e avvilito, e soprattutto con un grande sforzo della volontà, perché di ciò non gli importava più, lasciando cadere in qualche modo quell'infelice frase, soggiunse: «Allora, perché parti?» «Io non parto, o signor.» «E non ti piacerebbe partire?» «No, no, no», fece con la testa più che con la voce, ridotta quasi un fruscio, la creatura. «E senti, iguanuccia», cominciò il conte, ma non proseguì. «Essa è davvero bella», andava intanto pensando, come se la ragione non lo aiutasse. «E non capisco come il marchese non se ne sia innamorato. Forse perché non ha l'anima.» E gli occhi gli si empirono di lacrime. «Volevate dirmi qualcosa, signor?» chiese l'iguanuccia. «Sì, estreghita. Sei mai stata sposata?» «No, o signor.» «E non ti piacerebbe, con un bel velo, venire in Europa?» La creaturina prima lo fissò, poi si mise a ridere silenziosamente con l'imbarazzo dei fanciulli. Indi si fece seria e rispose asciutta: «No, o signor.» «Perché?» fu quasi un lamento la domanda del conte. «Perché no?» «Questa non è una risposta», pensò il conte. E pensò anche: «Io non sto bene, però. Eccomi in piena notte, nella deserta Ocagna, avvicinarmi a un pollaio e chiedere a una tribolata iguanuccia se vorrebbe sposarsi e venire con me in Europa. A parte il fatto che ciò, per la sua giovane età, non può interessarla. Io non badai alla circostanza che mi ero ripromesso di farle piuttosto da padre. Di sposi ve ne sono fin troppi sulla terra, e di padri, per quanto ne so, nessuno. Anche in questo caso, però, l'ostacolo rimane. Può, infatti, uno spirito immortale farsi intendere dalla irrazionale natura? E che cos'è questa natura? Bene o male? Che cosa attende? Essa soffre, è chiaro, bisogna aiutarla. E ciò possibile senza morire davanti all'Eterno?» Questo pensava il conte con un senso di freddo. E distogliendo gli occhi dalla iguanuccia, che rimase in silenzio a guardarlo, si allontanò da quel luogo con un sentimento che, più che di umiliazione, era di tristezza, di uno smarrimento che solo gli uomini semplici sperimentano allorché la pace di Dio si allontana da loro. Thank you. Le due lune di Ocagna. Un'altra nave. Sorpresa. Ritornando verso casa, e più che altro perché non si sentiva di chiedere, ora come ora, non diciamo un sollievo, ma il più modesto rifugio a quella tetra abitazione, un riparo alla vaga malinconia, ai pensieri di un ordine non più sentimentale, ma quasi teologico che lo invadevano, egli scelse la via più lunga, che era, tenuto conto della conformazione dell'isola, di una mezzaluna col dorso ad oriente, verso la costa portoghese, la medesima che da Levante, girando a nord, dietro la collina che nascondeva il porticciolo naturale dell'isola, si congiungeva a quella spiaggetta sud-ovest dove un'ora prima erano scomparsi, abbigliati come per un ricevimento, gli ospiti del conte. Egli, il conte, si riprometteva, come facile accada quando siamo turbati, di trarre dall'indugio o le difficoltà del cammino o altre curiosità un diversivo alla lieve, seppur mortale, tristezza. Supponendo che l'alba, come sempre, lo avrebbe riconciliato con i propri pensieri, insegnandogli l'obbligo più semplice, istintivamente cercava di rimandare ad essa la soluzione dell'intricato problema. Per cui il suo sguardo, allorché giunto in cima alla collina e riabbracciando dopo molte ore il misterioso occidente, si incontrò con quella luna che egli aveva ritenuto del tutto immaginaria. Sostò piacevolmente sorpreso, senza rendersi conto, sulle prime, della serietà di tale bizzarria. Indi, riconoscendone la seconda luna, la prima arancio e lievemente allungata come un tuorlo d'uovo con dentro il suo pulcino immagine, già saliva con aria affaticata dietro il promontorio e tendeva a sbiancarsi, e nella sua innaturale vivacità il faro di una nave appuntò la sua attenzione sulla nave stessa. Un tre alberi scuro e assolutamente immobile, che sostava nel porticciolo tutta solitaria come uno sperduto uccello acquatico. Era nave a vela, non c'è dubbio, e di dimensioni non tanto modeste da far supporre che più che da diporto valesse ad usi di mercato. Temporaneamente a bordo, da tutti gli oblò spenti, non trapelava alcun segno di vita, come se la creatura marina fosse giunta ad Ocagna semplicemente attratta da un sogno e non già per una ragione specifica. Poi il faro o riflettore, mentre si spegneva, e questo indicò che qualcuno a bordo doveva pur esservi, illuminò in pieno, straordinariamente avvicinandola, una fila di cassette di botti che figuravano ammucchiate sulla riva, come appena scaricate, o pronte invece a qualche partenza definitiva. Aleardo, stordito, e cercando con tutta la sua bontà e semplicità di richiamarsi all'ordine, impedendosi fantasticherie che lo avrebbero portato a un'ulteriore deroga ai doveri della correttezza, invischiandolo in una non lecita curiosità sulla vita segreta di Ocagna, già dopo qualche attimo di meditazione stava volgendo le spalle, allorché gli parve scorgere, dove la spiaggia uscita dal promontorio riappariva alla vista, un breve corteo capeggiato, questo era sicuro, dai fratelli del marchese. Seguiva Don Ilario in persona, dando il braccio a una creatura di genere femminile. Un'altra creatura del genere, ma straordinariamente allampanata, seguiva a breve distanza al braccio di un essere, al contrario di lei, largo e basso, che il cranio scintillante alla luna definiva come uomo. Sulla qualità di altre tre persone non poteva esservi alcuna incertezza. Si trattava di un prelato, di un chierico e di una infioratissima domestica negra. Lieto che le sue preoccupazioni sul mistero della nave si fossero così inopinatamente chiarite, e ancor più lieto che la solitudine di Don Ilario, o per meglio dire di Hieronimo Mendes, che tale e senza alcuna spiegazione, per cui nemmeno noi ne daremo, si rivelò al conte il più profondo nome del marchese, non fosse di un genere tanto irrimediabile. E solo impacciato dalla propria goffaggine, che non gli aveva permesso durante la cena di intendere come i Guzman si apprestassero a ricevere visite, e ora lo poneva in una situazione di vera indiscretezza, Aleardo divisò di fare rapido ritorno alla casa, rientrando nella sua stanza prima che il corteo raggiungesse lo spiazzo con le querce. Si sarebbe subito coricato e addormito per essere pronto già all'alba a raggiungere la Luisa. All'iguanuccia, che nel cuore sempre gli doleva, non voleva per ora pensare, e chissà che non fosse riconoscente al caso che gli ingiungeva di accantonare per ora la strana questione, che il cuore dell'uomo, anche se di un conte lombardo, non tralascia occasione, almeno nelle sue pieghe meno illuminate, di differire una qualsivoglia azione se si presenta appena tale da sfinire l'anima con la sua problematica. Vi è della pigrizia, anche se non sembra, nel cuore dell'uomo. Dove ammettere, qualche minuto più tardi, due cose che entrambe lo turbarono. Che dalla spiaggia, per esempio, potesse esservi un passaggio sotterraneo fino alla casa. Oppure che gli strani ospiti, a modo di streghe, usassero, più che camminare, volare. E tutto ciò perché, una volta giunto nei pressi della casa, capì che sia i Guzman che gli altri erano già arrivati, e questo lo si vedeva chiaramente dalle finestre, che erano spalancate nella notte e mandavano fuori una uniforme luce rossastra mista a volute di fumo denso, dove nardo e incenso si equilibravano, e lo si sentiva anche più che vedere da un suono alto e inebriato di inni religiosi accompagnati da basse litanie e dal rombo di un armonium, che quando il giovane fu a pochi passi dall'abitazione, come casualmente, si smorzarono e finirono. Tutto questo, se Aleardo già non avesse visto dalla sommità della collina il breve corteo con in coda il prelato e il chierico, avrebbe potuto inquietare la sua immaginazione, mentre ora, associando quelle immagini religiose a questi suoni e odori anche religiosi, ebbe la chiave di una così suggestiva accensione della casa, mentre rimaneva dall'altra parte in lui non so che d'amaro, determinato da una certa violenza o posizione moralistica che era in quell'apparato, dove pareva che lo spirito divino si ponesse deliberatamente di fronte al male, per avversarlo a ciò che la sua cupa fronte si piegasse nelle tenebre per sempre. Impensierito, e diremo più chiaramente un po' contrariato da questo riaffacciarsi persino nell'acquoso oceano di una polemica, e più che di una polemica, dei modi autoritari della Chiesa nei confronti dell'abisso, il conte risolse di non più occuparsene, chiudendo ermeticamente occhi e orecchie, giacché la malattia, perché era chiaramente una malattia, e nella sua forma più scoraggiante di ossessione del Segovia Mendes, cominciava ad avvilirlo, e i suoi amici non sembravano più spregiudicati di lui. Si trovava il conte sul lato sinistro della casa, avendo aggirato cautamente la facciata, e qui, dove non vi era alcuna apertura, si sentì più tranquillo. Ma non lo fu del tutto, se non quando, arrivato sul retro e scorto l'uscio della cucina aperto e l'interno deserto, non ebbe raggiunta la botola che immetteva nel sotterraneo. Intendeva, per non essere visto e risparmiare così nuovo imbarazzo ai suoi ospiti, raggiungere la propria camera passando attraverso quella della iguanuccia. Nel far ciò, portarsi cioè fino alla botola, sfiorò il vasto tavolo della cucina e qui scorse con meraviglia tutto tutte le sue bottiglie di Malaga e non poche altre di spumante francese, poi calici e una zuppiera colma di frittelline al miele, certo opera di Felipe, che la ormai pallida luna, entrando dall'uscio sconnesso, illuminava in pieno. Così, dopo la benedizione, il ricevimento, si disse, e fondendo in questa esclamazione un dispetto di cui non gli faremo colpa, anche perché passeggero, per essere tenuto a parte della festa. In questo il conte si dimostrava fanciullo, denunciando ancor più l'ingenuità dell'animo suo. Subito dopo, però, un dispiacere più vero, in quanto lo ferì scopertamente, si presentò al suo pensiero. Per la iguanuccia, niente dolci, niente brindisi, niente ricevimenti. Anzi, nell'evenienza che stesse a spiare, l'avevano addirittura allontanata dalla casa. Le parole di Felipe «E poi rientra subito nel pollaio!» gli tornarono tosto alla mente e, per quanto lentamente, legandosi ai presenti avvenimenti, illuminarono una situazione che al conte parve improvvisamente assai densa di sospetto. Se la servetta, come sembrava almeno dalla sua tranquillità, veniva allontanata dalla casa ogni notte, ciò significava che almeno ogni notte da qualche tempo la scena dello sbarco si ripeteva e la casa veniva visitata da quegli stranieri. Forse ogni notte veniva benedetta. Qualcuno, e lo dicevano le casse ammucchiate sulla spiaggia, stava per partire e qualcun altro per giungere e sostituire, forse in modo assolutamente definitivo, gli antichi padroni. Allora, altre parole udite a cena da Don Hieronimo Ilario e che molto lo avevano meravigliato, come quel «Ora è tardi, assai tardi, io temo», gli tornarono alla mente con inaspettata pietà per il giovane e anche stizza per essersi comportato così scioccamente. La certezza che la casa, se non l'isola stessa, fossero in vendita e che Ocagna stesse per cambiare proprietario, e da ciò probabilmente veniva la disperazione di tutti e la paura della bestia entrò in lui come la lenta luce del giorno, senza possibilità per tale chiarezza di diminuire ma soltanto di crescere, rimanendo non di meno del tutto misteriosa. Nemmeno il ricordo della momentanea trasfigurazione del marchese sul balcone quando accennò alla sublimità dell'amore valse ad attenuarla. Anzi, proprio a quelle parole e alla loro arroganza dove l'accrescersi dei dubbi sulla pace del letterato e una sempre più acuta malinconia rammentando la propria insensata approvazione. E probabilmente a causa del fatto che la porta della cucina in quell'attimo principiò ad oscurarsi, forse per il venir meno della luna, da tale oscurità egli sentì crescere quel dolore provato nel colloquio con la iguana, come di una impossibilità somma e fondamentale di capire, di afferrare una verità come la luce della luna, del tutto presente eppure nascosta. Thank you. Si chiude con queste parole l'ottava puntata della lettura di Monica De Muro, che sta leggendo per Ad Alta Voce, lo spazio di Fahrenheit dedicato ai grandi romanzi della letteratura. Sta leggendo L'Iguana di Anna Maria Ortese, una lettura che, come vi abbiamo detto, proseguirà fino al 27 luglio, fino a venerdì 27 luglio, una lettura integrale che potete poi riascoltare attraverso il nostro sito Rai Play Radio. Vi ricordo anche che Ad Alta Voce è curato da Anna Antonelli con Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, la regia è di Riccardo Amorese.